arrivata la pioggia, l'ho vista, arrivata. Tutti i campagni secchi, secchi. La telefonata, non ci ho fatto caso. Dimmi, vai, chiamami. Ehi, già, scusa, la telefono. Guarda, stavo chiamando. Basta, aspetta. Oh, già, calda la linea, senti un tratti. Gianni. Ehi, Alu, ho capito, sì, dai, ti richiamo. Ma tanto mi stanno arrivando loro. Ma con un po' il radio, dai. Niente, no, che stavo chiamando per quella cosa là, se la fattibile, non è fattibile, ma adesso anche per te faccio una passeggiata, penso che ti faccia bene. Poi se provi per mettere la benzina, non ci sono, dici la benzina, la voglia per andare a tornare. No, ma io mi stanco adesso a camminare troppo, non ce la faccio, capito? Mi stanco subito. Ah, ecco, capito, ancora non ci sei ripreso al 100%, ho capito. Sì che si tratta di camminare poco qui, ma se devi scalare in montagna, roba del genere, sono ancora un po' così, capito? Comunque anche in pineta poi si può andare. Perché no? Ma sono quest'acqua adesso. Ma questa settimana d'acqua, tutta la settimana penso più, già vediamo. C'è da controllo. Allora, oggi 81, domani pioggia. Sabato un po' così, sabato e domenica non ne ha messo più, cioè, penso domenica sarebbe l'ideale andare a fare asfalti, perché ha messo più già anche ha messo più già oggi, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato il 33%, ma non credo che pioffa, e poi domenica il 24%, ma non ne ha messo più già. Ma domenica c'ho gente a casa, c'ho mio nipote, mio figlio a casa, capito? Casino, c'è Elena. È un casino andare in giro. Devo aiutare. No, vabbè, io ho detto così, no, da domenica non piove, poi lunedì, martedì non penso che piova la prossima settimana. C'ho da 2 secondi, ma lavarmi le mani, già mi sono messo al massimo la barba. E tutto oliosa, aspetta. C'è qualcuno sul canale 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Sono, sai che Daniele è integrante, quindi diciamo che li ha lanciati Maria nel mondo. Ah, ok, ok, ok. Praticamente andai perché c'era la palestra. Che è avanti? Avanti sul canale 10. C'è solo nulla. Paura di Davide. Tanto la camera 6. Hola, c'è qualcuno qua? Direi che mi ha molto contento. E beh, Luca, sono andato a ritirarmi oggi, i soldi. No, potevi andarci domani, dai. No, che ero in truscia. No, dovevo fare commissioni, io ho fatto commissioni anche, non è che... Cazzo. Maurizio Maria, lei, la sua roba. Mi dovevo pure il gasolio nella macchina. Oltretutto. Già ho fatto tutto, no? Mi dico più di noi. Basta. Cazzo. E Marita, vendi. Sì, ti sto cercando Giulio stamattina, poi ci siamo fatti 2 chiacchiere. E stamattina non c'ero lo stesso che stavo facendo cosa, ho chiuso. Abbracciato le carine. Finendo quella roba la sto chiudendo, mi sono andato alla foto. Caraghebe. Gianni, ci sei? Ah, ci vuole, vai Luca. Quando ci vuole, ci vuole. Io stavo andando la volta. Ah, ok. Ciao Gabri. Chi è? Chi è? Vedere a te se parli un altro poco. Una volta che ti scrivi un bel baffa nel commento. Perché? Siamo tutti. Cazzo, dalla parte di chi è, chi è con questo fischio? Vai, cuoco, ne cosa vuoi, eh? Ti vuole da solo, con culo. Vai, drogato. Tu sai. Attenzione, doppio Ruggi, sì. Ma che sei troioso, me? Tu sei bagasso. Ah, che ci sono parole di bruttissimo. Sentite là cosa ha detto. 3 anni c'era. Non c'è, lo so cosa mi ha detto lui. Bagasso. Perché? Sì, cuoco non è bagasso, eh? Boioso, eh? Figoso sia. Sì, già l'ho detto a 50, almeno ti prende bastonate quando ti trova. E io a 50 gli dico che cute può cuomare, eh? Chi è? Chi è tu che la bidivola che sei uscito male? Chi è? Oh, vabbè. Però è già rotto di balla quando piove, eh? Le palle, guarda. 43 anni! Mi sono tutti in fusantura. Beh, ti credo. No, io mi ricordo quando ero ragazzino non me ne fregava niente. Andavo a casa bagnata, ma anche no. Adesso, chi ne ha più voglia di bagnarsi? Per carità, è morto lì. Io guardavo la pioggia, è morto, ma anche no. Quando mi prestavo il ciao, mi, tantissimi anni fa, sto parlando di 30, cioè 15 anni, 33 anni fa, 34 anni fa, in ciao con la pioggia, chi la sentiva la pioggia? Voi, per carità, adesso ho giù tutti gli acciacchi mari, mancano dalla cervicale. E ci abbiamo un po' con freddo, oi. E non è pa' chi sono qui su canto di carraziata, chi prima va di lo spavaldo, mi abbaglia. Ah, va. C'era Gianni poco fa, Gianni il caldo, non parli. È un troioso quel Gianni. Aspetta, la taglia, c'è una chiamata. Buonasera, Natalino Alfa 1. Buonasera Natalino, ben ascoltato. Come dice? Ben ascoltato qua, Candio. Mica c'è quella roba, mi. Cava, andame. Comunque non è domani, e né dopo, è giovedì il 2, perché oggi ne abbiamo 27. Sì, va bene, allora andiamo giovedì, non è un problema. Cava. Qua un attimino, come dice, sto cercando dei ricambi che mi servivano qua, ma pensavo che non si trovano più. Cosa ha messo il te sulla strada di quando è che si è bruciato il differenziale? Avanti ieri, un casino. Venerdì, cazzo, mi è successo il salvavita, mi è scoppiato, perché deve essere che era salato e non, quando ha scoppiato la corrente era già salato questa roba e poi non armava più, l'ho dovuto comprare nuovo, poi c'era un filo in corto che toccava il muro e non armava il sagoso, un casino qua. Per carità. Fili grossi di quelli come quelli della Baggiù, notti di 4. E vabbè, ma l'hai risolto almeno, dai. Già l'ho risolto, ma cazzo. Doveva essere ubriaco quello che l'ha fatto. Un usano non lo guardi, no. Quanti anni abbiamo? Per carità. Era un filo da Baggiù, chissà dove anda, l'ho eliminato, no? Ma non si sa dove portava corrente questa cosa qui, e toccava addirittura il muro, e scoppiava lì. E beh, scaricava a massari, è chiaro che andava in blocco. Da credito mi si è fasciato un frigo. Ari 3 di manzana accoppiato, dimmi tu. Cazzo, ho aggiunto. E ho visto che c'era il frigo rotto. cioè spento, no? E credevo che era il frigo, invece no, manco mari. Se no mi toccava comprarmi un frigo nuovo, burro. Allucinante. Io ia, le cazzate che fanno la gente, guarda, è una cosa allucinante. Avventurieri sono quelli, avventurieri, capito? E allora, ma ti pare il filo che passa la corrente deve essere almeno da 2.5, cazzo? Perché da quanto era il filo? Da 1.5? Neanche, il filo da Baciutti gioco di Zendi. Lo filo di Baciutti, presenti, mirai. E ho capito, sì, sì. E chissù, e ha fatto come se fossibile, manco mari. Allucinante che... Si è accoppiato. E perché fanno lavori che... per carità. Infatti me l'ho piazzato l'indomani, il differenziale nuovo, no? L'ho comprato anche la scatoletta, perché la scatola era tutta massacrata, quella che c'era prima. Non è già avuto manco pugni una cattura di pugni rugoso, ma il differenziale, io tutta maciullata era. Chissà che cazzo l'ha fatto, io avevo 40 anni, ma... Qualche avventuriero, prima arrivati a negoziare i travagli, facevano le cagate, Natali. Se manco massa a terra c'era qua, che l'ho fatta io, come me ne sono accorto. Te lo ricordi? I fili che ci sono attaccati al contatore, quelli li ho messi io, grossi. A chi mi sono capitato che era una brolunga, filo di brolunga, e io gridivo era filo grosso, invece no. Quando era giù di montato, ho subito che erano filettini fini fini, ha giubilato, cazzo, ma ha girato tutto, e ha giubilato un cavo nuovo. E beh, fatto bene, dai. Ma chi c'è dai a vedere queste cose, cazzo? Da voi si sembra cosa ti incazzi? È un casino, è un casino. E manco male che io gli amminci in Dio, sia di 2.20 che di 3.80, che se no, cazzo, toccava già maracuna a punirla poi su tutto. Beh, è così. Ma dimmi una cosa, va bene, mi stai ascoltando? Sì, va bene, la voce è un po' rauca, però per il resto va bene. Sì, signore. E io lo stesso ieri, rimane, mi è mancata la voce, mi fra. Mi è mancata. Cazzo, di dopo te non riesci a farmi da. Questo tempo è un tempo di merda, Natalia. E oggi, poco fa, sono andato a fare delle commissioni, mi sono tutto quanto infuso, mi sono prima fila per il servizio costante. Domani è la tonnevia bassa quota pure, temperature in calo. E fai su, io mi tocco in casa io e non andare in sul lungo. Un avvocato. Cazzo, io so con tutto quanto costumari. Speriamo che migliori questo tempo, se no è un casino. E davvero, non si può. Così non si può. Non sei buono, non sei buono, non sei buono. Cazzo, in laboratorio punta di quadri a 380 mi va zio. Cazzo. Questa è la nota. Se non ne sai, cazzo, non ti mettere a fare la cosa. Perché fai danni. E tu raccontavi di quando. Cazzo, se uno non si inabizza, se li puoi incendiare a casa, se li puoi incendiare. Eh beh, certo che sì. Meno male che ce l'è salvavita lì. Ma era tarato, non ha scattato il salvavita, e allora è per quello che ha scoppiato, capito? Se no col salvavita non scoppiano, perché sacca e buco. Sì. E vabbè, vuol dire che era andato la taripure, dai. Vecchio era, mi. Veramente vorrebbe cambiato ogni 5 anni il salvavita. Perché si starano, capito, quelli lì. E se non scattano è un casotto. Sì, con l'andare del tempo si rovinano, capito. E no, io lo provavo sempre e scattava, solo che doveva essere starato, 40 anni, vera amica, te la vedi. Era chi tu che va a 2020, invece chi tu va a giubilare da va, va una levetta su, rubiù il testo. Ecco, beh, certo, allora sì. E adesso è diverso, era, quello che c'era prima era quello con due levette, prima ne alzavi una e poi alzavi l'altra, una azzurra e una nera era. E il testo era giallo, invece chi ci vuole un matessi e bicicino però non ha un azzurro lì. di Levetta. E intanto la giubbagato 34 euro la giubbagato, più la scatoletta 5 euro e qualcosa, la scatola è a parte, capito? Mica te la danno completa. Stavo dicendo, da quanti aperei quello lì, quello che è piazzato? La 25, come te chi su vera? Va bene, e il capi da quanto gliele vici, da 2,5? C'erano già quelli da 2,5, che c'era quello fine della Baggiù, quello l'ho eliminato e isolato, perché ho dovuto rompere il muro, mi. La Baggiù. Fino da Baggiù, vera, chi sono accoppiato ha fatto come te un fusibile, mi. Si è salvato l'impianto per quello, perché ha scoppiato quello, perché era fine fine il filo, ed era fuori dal corrugato, hai capito? L'altro è dentro il corrugato, quindi il muro bloccano, e poi sono grossi chi si sono dritto, chi l'ha già mai dato. Quindi praticamente entrava il cavo da 2,5 e usciva il cavo della Baggiù, il cavo, quella piattina fine fine. No, era insieme a quegli altri cavi grossi. Capito, quello era a parte. Quello della Baggiù. E ha fatto come fusibile, mi. Si è, ha scoppiato e ha disinserito il frigo. Praticamente era il filo che va alla presa, mi. Ed era via Baggiù, deva sì. Cazzo. Ma dimmi tu, invece di punire il filo da 2,5, nella presa mi pone il filo della Baggiù. Ma vada a fanculo. Sì, roba vecchia sicuramente, era tali capito. Roba vecchia. Poi era dentro il muro, era mi. Quindi non lo vedevi. Io perché ho visto il coso nero, l'ho aperto e c'era il filo lì. Cazzo. Beh, è un casino, ma devo dire. Il muro, ma la sorte, cazzo, non isola un tubo. Per carità, quante cagate fanno, io vedo certi impianti che fanno da piangere, ti viene, guarda. E allora, molta gente cazzo dai macchinari ne toglie la sicurezza, cazzo ne toglie, che non si va mai, da poi dici, si lamentano che morirà niente. Non si tocca mai quella roba lì, i dispositivi di sicurezza si lasciano nelle macchine. Un bel biglietto, il biglietto è Ponticelleggia. Sì, Ponticelleggia, ne questi cazzo andano sempre. E così fanno quelle friggitrici, la stessa cosa, capito? Eliminano il termico, poi prende fuoco la macchina. Io non credo che piglia fuoco, si elimina il giro termico. Cazzo di altro. Guarda, è una cosa che fa schifo. Il problema è sulle friggitrici che arrivano a 190 gradi e poi arriva a 190 e stacca il termostato, gli eliminano il termico, quindi va in ebollizione e si brucia quanto c'è. E Lucarone Mattessi è che deve fare bruciarlo, certo. E lui dice che anda sempre, ma si blocca, compreso. Tu pensa che il termico arriva a 260 gradi, quindi ti dà la possibilità dai 190 ai 260 gradi e poi scatta, è chiaro, no? Ma se questi lo eliminano, sono dei criminali, insomma. Ioia, di tutti i colori se ne vede in giro, guarda. Quello è essere criminale uno, che fa quei lavori lì. Cazzo, pagando mai. Ma è questo, mica ti lo posso vedere, da di chi vieni ti lo posso vedere. Di quel tempio con un così. Però isolato e l'ho messo dentro il corrugato, no? Perché se no cazzo. Ha già dovuto aprire un muro. A chi era in chi lo danno? Io va bene. E meno male te l'hai risolto, dai. Sì, ho credo, ti l'ho risolto. Cazzo, l'ho dovuto mettere l'indomani il termico perché non c'era niente da fare. E cosa hai fatto? Ponticellato gliel'hai. Gliel'ho messo diretto, però alle 3 di notte ha cuppiato, non ha compreso, a chi non vede il termico. E manco Mario, così ha giovito più meno un anno. E vabbè dai, portateci è andata bene, tutti i dini. E infatti, adesso già è a posto. Gava, gava, andare. E per fare quei lavori avevo un capo mancante, vivo, no, non è sano uno che fa dei travagli così. Avventurieri sono quelli, capito? Si chiamano avventurieri, capito Natalino? Già ho capito. Ma a me verranno i ripresi, tutti a norma, tutto a posto, gatto. Si sa che cosa trattante è un casotto, E io mi facevo i quadri addirittura, li facevo io. Ui, ma quindi ti piace questa radio mascola qua? Sì signore, è proprio mascolo lì. Questo è lì. Gava, ui, va bene dai, comunque ce l'ho sotto la email, il micchiere Natalino. No, gli andava così, dai, così andava il problema. È una radio bella, non è eccessiva. Gli italiani devono qualcosa. E già si può modulare così, dai. No, l'ho abbassato, perché sennò poi va a strappare ed è brutta, che capito. E se la si più fa si bu, già lo sai come ti fa, se no? Già va bene così. E poi ti fa una voce di lusso, nonostante che sia rauco, stai dicendo bene. Diciamo che c'è un po' di raucine nella tua vita, quello è dovuto dal microfono, ma è la mia voce così. Sono via due piedi, pensando antibiotici, questo, l'altro, vaffanculo. Infatti, pare che non mi voglia abbassare, io pure so così, ma non è possibile. No? E questo virus attacca la gola, capito? Pure la gola non mi fa male. Preso le corde vocali, praticamente un colpo d'aria alle corde vocali, e vabbè, gli abbassa, tanto non c'avevo voce prima e niente. Grazie, pure mi raccogliatori, ma ricordi i vocali, il viraggio che studia la chitarra, ma non funziona. andiamo, ui, stavo seguendo quel corso là, me. E sono arrivato quasi alla fine delle lezioni io. Adesso l'ho chiuso e poi adesso a metà di questo mese lo riprendo, torno in mano, se no poi è un casino. Ma io non lo so se farlo, io non ho iniziato, non ho fatto un cavolo proprio, perché guarda, sono talmente disgustato che non ne ho voglia poi mi. Ma pigliato proprio lo. Sono disgustato, diciamo così. No, io Natalino lo faccio, e cazzo, mi sto preparando per quello. Cosa cazzo, sono via due mesi in andata in direzione. Sto studiando, allora tanto vale che studio, sto studiando perché me la voglio prendere, capito? E io me la volevo prendere per una soddisfazione personale, non per altro, mi. Che dovrà capire cosa è successo. Ma dato che come si sono svolte le cose mi ha disgustato la verità, perché io mi sono impegnato, ho studiato veramente, no, a buffonendi, e purtroppo è andata come è andata, dai. Non lo so se lo faccio. Riprova, dai, come dice quello, riprova, sarei più fortunato. Ma è fatto che non è la prima volta che riprovo e sarai più fortunato. Sono sfortunato io, ecco cos'è il discorso. Io non ti conosco più. Vedrai questa volta un pesce grosso. Se lo dice lei. Tranquillo, dottore. Se ne voglia già riprendo. Tu a tutti i dini, vieni qua e ripassiamo assieme, dai, fai un pari da già, vedrai che esisci. Due con più capisci a me, frate, capisci a me, non ti preoccupare tu, come dice il Mimmo, non ti preoccupare. E non ci preoccupiamo. Giusto? Sì, ha già detto Mimmo, ma questo è patetico, c'è difficile, insomma, cuore difficile, c'è di qua a Napoli, non c'è problema. Sì, vabbè, io lo so, ho visto. E ha già sbagliato a Napoli, lui. A me non mi piace, mi piace la cosa sudata, Natalia, capito? Non c'è gusto così. Infatti, così non c'è gusto. No. Con Franco sto parlando. Quello che ti resta. Ah, senza di buono sempre in mezzo. Il controllo del cibo. Allora chiamo Brezzemolina. Io quando faccio l'esame me la sudo e me la prendo. E cucino alcuni liri che me l'hanno regalata, capito Natalia? Ah, questo è poco ma sicuro, se io me la prendo posso dire che me l'ho sudata la cosa. Come mi ho sudato tutto quello che ho avuto, non è a dire che ho avuto agevolazioni di nessun genere. Quello è poco ma sicuro. Beh certo, ma giusto per farmi una chiacchierata in cui capito, a entrare qualche volta 40 metri, farmi una chiacchierata lì, giusto per cambiare ogni tanto, non è che mi interessa più di tanto, però mi piace averla e buco. E tu già lo sai per cosa la volevo prendere io. Non è tanto per parlare, è per una soddisfazione personale. Io ho capito perfettamente, Natalia, ho capito, ma non ti arrendere adesso, continua a fare quello che stai facendo e a tutti dirmi. Faremo così. Dicendo vai tranquillo, non ti preoccupare, prepariamo la domanda ad aprile e la spediamo fuori, su, capito, a Cagliari, poi vediamo un po' l'esame, mi sa che lo fanno a novembre comunque. E più tempo c'è per studiare se lo fanno a novembre. Però entro il 30 aprile deve arrivare la domanda, Certo, certo, io la spedisco pure prima, capito? La spedisco verso il 20, il 10, là, così va bene. E infatti, scarico la domanda e me la compilo. Ma io ce l'ho già, la devo solo compilare e mettere la macchina a bollo e spedirla. Capito? Tanto fotografie mi sa che non ce ne vogliono. No, negativo. Non ce n'è più nella patente fotografia. Va bene, così, così risparmiamo anche i soldi dalle foto, dai. E infatti, devi fare solo il versamento, quello da 25 euro. Gava, gava. Quindi tu devi andare giovedì là. Sì signore. E cappa dai, perché poi dobbiamo passare a prendere una commissione da una persona, capito? Vabbè, non c'è problema. Cava cava dai, andava bene. Speriamo però che non scenda l'aria, gatto, come sta facendo, a fanguarla. Stai pronta a me? Adesso ne ho anche le scatole piene di questo tempo del cavolo. L'ombrellone ci prendiamo nel draio, Natalia, non c'è problema. Non ha più avuto lì, poca roba, capito? Invece a Sassari stasera stava diluviando. Già ero fuori che stavo facendo commissioni, sono passato anche a mettermi il gasolio dove vai tu. E comunque il gasolio devi mettere lì, io l'ho messo là l'altra volta a Città Mercati, la macchina mi stava andando male, mi stava andando a colpi. Perché tu devi fare come ti ho detto io, non la fare andare a riserva che ti si succhia tutta la sporcizia che c'è nel serbatoio, è pericoloso. Guarda che a me una volta mi si è rotta la pompa di alimentazione, 250 euro, non so se merendo o se faccio colazione, e non me ne ha pagato quello del distributore, ha tancato buru roba di due ghedi, faccio ammassi di gisellini, a te immaginati, sono andato e ho detto ma avete rotto la pompa di alimentazione voi con questa cosa, deve essere c'è l'acqua in mezzo. Beh, non te l'hanno cambiata, non te l'hanno rimborsata. No, sono dovuto andare solo dal pompista, 250 euro, contanti, cash. Cava, cava. Non me ne ha voluto cambiare, non me ne ha voluto pagare, te l'immagino. Infatti non sono più andato a rifornirli, anche se ha le cisterne nuove adesso, quello lì. Perché siamo andati lì, andavo io, perché rifornivo anche la macchina del comune lì. E allora mi avevo bisogno di rifornire pure la macchina mia anch'io. Solo va via quindi di cisterne rugginose a bisogno mio. Cazzo, mi ha spaccato la pompa. Andiamo a vedere se c'è porcheria, ci sono residui a gasolio, è chiaro che aspira mondezza e ti brucia la pompa. Ma io il bello che non la facevo mai andare a riserva la macchina. Quando una giù moco, una giù mezzo serbatoio. Quando posso il bene addirittura ripongo un additivo per avere gli iniettori sempre belli puliti. Bisognava così tu devi fare un pieno e pulirsi l'additivo. E così ti pulisce gli iniettori anche. L'ho già fatto, l'ho carino. Mi hanno messo già un paio di volte e va benissimo, ho pulito tutto, capito? Ha fatto, diciamo, un po' di fumo nero, però per il resto andava benissimo. A chi ti ha pulito gli iniettori? Quando li pone chissà roba, doveva un pieno e una boccetta di quello dentro. E si conferma che vabbè ha fatto una bella fumata di nero e comunque capito. Perché il diesel è un motore sporco, cazzo, si sa. E quindi grazie, è tutto perfetto, sennò gli usai andà male. Sono venuto a arrivare. È un riduzzo questo motore diesel. Lo so, gli devi fare manutenzione, cambio d'olio, cartuccia, adesso mi gliela faccio più in là, cambio d'olio, cartuccia, tutto a terra di nuovo, e poi devo fare anche i freni posteriori, devo cambiarmi le pastiglie, perché ho visto che praticamente sono meno consumate. E io ci arrivo poco, facciamo i pastigli, se vuoi ti do una mano, non ho problema. Me li ho fatti sempre io i freni. Ma tu a voce dietro è a Ganasce o a Ferù, a Ferudi è il tuo, no? La mia sì, la tua no, invece che ce li ha tutti a disco. Leo, non lo so, non lo vorrei. KK, c'ho la pinza io e per i Ferudi anche, non la uso. Tieni la conta, che possono servire. La pinza praticamente per fare l'estrazione della molla. Già ho capito. A compregno, a compregno. Yes, sir. Il pubblicista sulla divertita. Io mi c'è la torrebbe anche nel Lorenzo domani, In Kibi vai fuzzo. In Kibi cazzo fa un freddo della Madonna. Sì, c'è freddo da tutte le parti. Qua ci sono 12 gradi, dai. Lo so. Vediamo che risalgano queste temperature, una grande mina picca e non posso fare niente con questo tempo del cavolo. A chi lo dice? A me lo dici, ui. Sono le canne che se ne stanno ridendo, cazzo. E le canne qua lo stesso stanno ridendo. Devo sistemare quella roba là io giù, Chissà, non lo dovremmo fare, ma stessi. Però se non fate tempo buono, non lo vuoi fare a incollare questa cosa. Aspettiamo che faccia una bella giornata. Scendiamo, se fa bello, una mattina. E lo facciamo, capito? Sì, infatti, almeno ci divertiamo. Uiaia. E poi le vedi di orate grosse come si tolgono. Almeno alla 50 la prendo a pesci in faccia. A te lo ricordi quando gli ho tirato l'orata, Angelo mio fratello? Eglia. Ti ha mettigato un navio rugofano. Vieni che ti faccio vedere una cosa. Gli ho visto rugofano e si è assultato. Dice, ma con la canna che hai preso? No, e allora? Un paradiaggio. No, sono andato al mercato con le 100 euro. Senza frizione, Natali, ti ricordi? Senza frizione, tiratura, proprio profusione, ui. Ah, quello già non si rompe. Cura. E più, mi ripara cazzo la dentiera, ragazza. hanno la porta a voce come dietro, c'è la prigione, c'è la prigione, ma te lo posso vedere io, come ti viene a dire che la dura. Ma c'avevi quello lì, tu se mettevi la lenza si poteva staccare. Sinonimo di. E quindi gli arusabbiami. È logico che puoi fare così con quello. Con quello solo però mi. A chi si tratti la lenza e usi la prigione chiusa te la spacca ma la sorge. Eh sì, però io devo considerare che il calamento, il filacciolo era di 0, era un 0,20 di fusion, filacciolavamo 0,20 di fusion, poi c'avevo praticamente in bobina, era caricato dai 35 e poi scendeva a 40, 40, 45, 50, capito? Per dirla, buonasera, signore. Bene dentro. Oggi gatto non c'è nessuno fra. Tutto tace. Se non entravi tu, tutti fuggiti. Ma chi l'ha detto? Ce n'è poco gente ascoltando. Io c'ho il monitor qua, li vedo tutti ascoltando. Adesso gli mettiamo la contravvenzione a questi che ascoltano. Orecchie pelose. Sì, vabbè, che ci vuoi fare? Magari non ne avevo voglia di parlare. Ieri non ne avevo voglia io, ma perché non riuscivo a parlare? Non avevo voce. Cazzo, mi è mancata la voce all'improvviso, rimane. Bello, perché hai dormito senza calze ieri notte, Natalia. Evidentemente sì. C'avevo qualcosa scoperta. Iglia, Iglia, andiamo bene, andiamo. È perché la 50 mi vuole sempre nudo. Davvero? È vero, è. Dille che ti ho procurato quel nervo fine fine che volevi. Quelle? Quel nervo bianco che volevi tu, quella bacchetta sottile. Ah, allora quella bruscio vecchia. Non ti ha sentito, non sembrava inteso, Yui. Oh, signore. Ti ha già detto che c'erano i telefoni. Ma che mazza Ecco, e adesso parli con Muro. Adesso parla con Muro. Io con Muro, parli con Muro adesso, capito? E se sai cosa mi ha fatto ieri di pranzo mia moglie? Oi, oi. Scommetto che ti ha fatto la ragosta. Ma cosa ragosta? Più buono era. E così la Brodino di mammo. No, no, no, quello non mi piace a me. Sì, non mi dici non ti piace il brodo di mammo. No, no, no, no, no, no, quello mio non mi piace. Ma se sei faccio cacciare i menuzzi. Ciao Tori, buonasera, ben ascoltato. Buonasera. Adesso faccio cacciare i menuzzi. Ah, non ti piace a te, neanche a te ti piace il brodo di mammo. Niente da fare, ciao, vado bene. Ciao Tore, buonasera. Ascolta, mi hai chiamato giù là a Cagliari per quella domanda quando si può inviare? No, oh, il primo d'aprile devo chiamare. Devo chiamare il primo d'aprile, ma l'ho detto così. Entro il 30, si spedisce, cioè deve arrivare lì entro il 30. E vabbè, allora si può impedire anche il 20, dai, già ce l'hai 10 giorni a Puglia e 9 giorni che arriva, bah. No, ma per saperlo proprio, mi ha detto di chiamare il 1 di aprile. E vabbè, ma io volevo sapere l'esame quando era, se era novembre o se era giugno, capito dove? Lo faccio sapere, il 1 di aprile te lo faccio sapere, quando è l'esame. Ehi, capagappa. Hai compreso un attalì? E io già ho capito già, e tu capito hai? Voi. Emmo. Dore, ma mi stai ascoltando a me con questa antenna di gomma, sì? Se non ti incontrivo, vuol dire non ti incontra nessuno. Se ti sta ascoltando un attalì, non ti ascolta anch'io. Attalì, visto là che l'antenna di gomma funziona, e tu hai detto che non andava. Ma io te l'ho detto perché anch'io ho l'antenna di gomma, è per quello che te l'ho detto. Ma visto là ti ascolta anche Tore, lui pure invece c'ha l'antenna di gomma. No, io non ce l'ho di gomma, ce l'ho di canna da pesca. La mia è una pesca. hai compreso? Pure se va ridotta, coccata un poco da contro me stesso. Hai visto Natalì, questo dottore, Fra, forse giugno mi deve dare una mano, mi. Ma che cosa, tu dimmi? Adrizzare questa antenna, l'antenna, lo baro, adrizzarlo e metterlo dritto. Non c'è problema, e quando è necessità mi fa uno squillo e si fa, capito? Eia, uno squillo non trovo su macchina, non faccio più, però il numero di telefono d'olio. Sì, vabbè, mi chiama il mio telefono, qual è il problema? A tuo telefono? Ti posso chiamare? Sì, ma senza numero. Come senza numero? Se penso che sbadattamente me l'hanno cancellato, o mia nipote o mia figlia. Ascolta, dai, ti faccio uno squillo dopo e te lo memorizzo. Eia, va benissimo. Se te lo capendo una cosa, no? Dice, vedi? Ok, dai. Pescatore, c'ha la chiamata pesca lui per ascoltare a noi, ha capito? È furbillo questo dottore. Avete fatto da noi, ho sentito solo le ultime parole. È furbino. Ho detto che tu sei furbillo, perché c'è la chiamata pesca per ascoltare a noi, tu. Tu sei ingannoso. Andavo, avete provato a dormire in due, ho sentito la canna da pesca solo. Ma mi dà che papità o non mi dà che papità, fra? E arrivi a 20 metri. Tu siete papitato in due? Torrese. Avanti, fra. Franco, cosa volevi dire? Avanti, Natali. Ah, mi papita da raso, bravo. Natali. Ho detto che tu sei furbillo perché c'è la canna da pesca per ascoltare a noi, sei ingannoso, zitto. Non lo sapevi tu questo. Così non va bene però. Cattami. Da te credo. Sì, mi era sentato un attimo, dai. Cos'è, fra? Ci ho cantato a Brian. Ehi, hai fatto bene. A pagare. No, non ho aggiunto subito a coso. Ma ti si chiama Antonio. Vabbè, io sono da un paio di giorni che non entro perché non stavo bene, t'ho capito. Per la voce, quindi magari se parlavo poi, cazzo, mi va di abici, ma adesso mi sto migliorando piano piano e quindi sto cercando di parlare meno possibile. E bisogna che domani sera mi avvicini a vedere al coso. Ma come ti mai non si fa di sapere più nulla da coso delle ambulanze? Non so cosa dirti, io dopo. È che non c'ho più il numero di Antonio, se non l'aveva chiamato. Ma forse non ne stanno più facendo lezioni lì, la stanno facendo a Porto Torres, se mi sa tanto. A Porto Torres? Oh, a Porto Torres non vi paro. Io sono sentito che forse la stanno facendo lì all'area di Porto Torres. Vabbè, comunque lo voglio dire cazzate, ma ho sentito così. Ciamatti, no, non ti chiamano nemmanco. Ma scusa, ma perché cosa? Ah, per vedere se qua continuava o no. Ma scusa, non ce l'hai il corso, quello che ti ho mandato io? Sì, quello da seguire è di coso, quello me lo sto seguendo. E allora qual è il tuo problema, scusa, Ah, per vedere cosa diceva lui. Ecco cos'è. Le stesse cose che ti diceva da quando siete andati lì, uguali identici. Ehi, vabbè. Quindi che seguo da solo con questo coso. E poi da coso vuol dire che ci metteremo d'accordo per farlo. Ma ti dice, corrente elettrica, corrente alternata, coso, resistenze, diodi. Cazzo, valvole non ce ne sono più, quindi neanche te ne chiedono più di valvole, capito? Condensatori, induttanze, reattanze, quella roba ti devi studiare, normative. a me veniva la battaglia a bara memoria, a me sta un po'. E tu l'hai studiato, cazzo, certe cose magari non te le ricordi adesso, perché te le devi studiare piano piano, non veloce i corsi, se no te ne fai in capo. Sì, più piano di chisso. Sì, giochi la memoria, mi pare che ce n'è un po' che resta andata. Sì, vabbè, già ci sono le pastiglie là per tenere la memoria fresca. Sì, infatti. Ma adesso guardo di comprarmele. E ci provo a prenderne qualcuna. Ma Natalino in stand by, è andato. Natalino, non deve lasciare mai niente però. Ma c'è domani che chiura. Sì, cappa. Già ci sono. Mi sta mangiando tutti i gamberi quel Natalino, cazzo. Ma allora c'è Natalino che tu non ne vuoi mangiare gamberi. Ha giudito che mi ha fatto brodino di mammo. Brodino di mammo. Sì, non ne mangia lui brodino di mammo, mangia roba più delicata Natalino. Lo so io cosa mangia lui. Dai, andiamo. Poi. L'altro giorno sono sceso qua giù in macelleria, Otto. Gli ho detto dammi 4 fettine di carne di cavallo, devo fare una piastra, no? Con un po' di verdura, ho detto, per mangiare il primo, mangio il secondo e basta. L'ho cucinata a tuo caucciuia. Com'è il caucciuia? C'era? Non ti la lascia guida. Ti mischiano solo i denti, muro la bocca, di ti sia presso. Cingomma che. Allora vuol dire che l'ha tagliata male? Vuol dire che l'ha tagliata male, l'ha tagliata? No, diciamo che era tutto nervo, che era diverso. Era tutto pieno di nervi quella carne lì. Se di nervi, piena di nervi non serve a nulla. Se di nervi non serve a nulla, così rimane gaucciurri, ma... No, io l'avevo presa l'altra volta, l'avevo presa qua al latte dolce ed era denara, una girata a sangue, mia moglie avevo dovuto cucinare più a cosa, però perché lì a sangue non piace, io me l'ho fatta lo sangue. E comunque in ogni caso io gliel'ho portata indietro, capito? Gliel'ho portata giù e gliel'ho fatta vedere. Gli ho detto non me ne dare più a me di questa cosa qua. Tucci. Di questo prestigio gioco hai rubizzuono e allora si da Ziniraga, purtroppo devono vendere anche quella loro, capite? E se tu capi la carrinosibia mara Tucci, che ha saputo l'office ma ti indaghi. No, ma detto che è stato onesto, dai, mi ha detto, e allora mio figlio ha sbagliato, ha preso l'altro pezzo. Allora me l'ha tagliata sottile di la denara della. La carne cavallo quando è buona, quasi più grossa ed è tenara denara. Capo di positivo, non so dove l'ho trovata buona, io lì allo spaccio carne. Infatti. Sfida fra Roberto e Marco. Stata lì vai con 30 euro. Le porti due borse di carne. Già lo so, anch'io devo andare lì adesso. Lorenzo, e vediamo un po'. Sì, Natali, l'unica è andare lì. Perché non comprare carne Eurospinni, per carità. No, ai supermercati non ci vado mai io. Perché Gianni me l'aveva detto che lui lavorava al supermercato, ma non ne piglia mai mi, al supermercato. A chi la carri di un supermercato non serve. Per carità, vai Tore. Sì, infatti. No, io l'ho preso alla macelleria che c'è qua latte dolce. E mi idrata sempre bene, mi idrata. Però gli dico le fettine di cavallo, sempre a Brento e me la dai a coso giusto proprio buona, fine. Ma dalla carne dell'asino, dell'asinello alla carne di cavallo, che differenza c'è? Perché io non sono un grande intenditore di carne. Ma la carne d'asinello è un bel diversa. Rimane su un po' sul giallastro rimane. Cioè la carne di cavallo rimane ruia. Giallastro, ma poi rimane più dolce rispetto a quella di cavallo. Sì, rimane appena appena più dolce. Infatti gli devi mettere, quando stai cucinando gli devi mettere un po' di vino bianco sopra. Ho capito, sì. Andare, vai, ma ti dico una cosa, ma Giovanni non l'ho più sentito, come mai? Bisogna che andiamo sul 23 per sentirlo. Ah, così è. Vabbè, lui è sempre lì nel 23. No, io sono entrato vero qua, al computer, e stavo seguendo delle lezioni e poi sto facendo altre cosette e ha chiamato la talina, l'ho risposto perché ho acceso a momenti, capito? Aspetta che se vado sul 23 a vedere se lì ritorno e ti chiamo. Va bene, va bene, vada Natalino, vada, vada Otto, vada, guardi il danno che ha fatto, guarda. E allora, Castropiglio hai sbagliato, invece dati cavato ti ha dato cavato a dondola a te. Catamattuccia però, che è giudizio? L'ha giudito mafio da pigliare un motto picco prima di mangiare la gara. Io dico di mi sia dentiera di mi sia professore di Maiuca. Cioè gli sto dicendo che tornare indietro. Caucciù. Franco! C'è Gian Maria sul 23. Aiuta, scendi la tarina 23. E via.